Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, Oscar, sono allora, le 8 e 20 minuti. Com'è allora? Ah no, allora, ho capito allora. Ancora. No, allora, ragazzi. Oh, ma li volete comprare gli ultimi biglietti per Platone? Per che cosa? Ah, per Platone, domenica. Ci metto anch'io, certo. Dai. Senti, ma qui lo sai che tu solo donne non è... No, esatto, qui abbiamo il prototipo di quello che Dijsselbloem, perché mi hanno scritto un ascoltatore olandese, no, un'ascoltatrice mi ha detto guarda che si dice Dijsselbloem. Dijsselbloem. Abbiamo un prototipo di tutto ciò che Dijsselbloem aveva in mente, cioè Oscar Giannino, donne e gli uomini del sud d'Europa che spendono tutto in donne e alcol. Adesso sono diventato del sud, un donnaiolo d'Europa. Ho la cirrosi epatica praticamente. No. E poi infatti è la quasi citazione del mitico George Best: ho speso tutto in donne, alcol e macchine, il resto l'ho sperperato. Grande calciatore George Best. Ma non era George Best, però non era né del sud né italiano, no, né spagnolo, direi che i beoni, insomma, voglio dire, come tendenza purtroppo sociale eccetera, sono più elevati e concentrati nel nord Europa. Sì, che poi anche donnine in Olanda continuiamo con questi stereotipi. Il problema qual è? È che il suo partito aveva perso da disastrosamente alle elezioni in Olanda, sai che è così, sì. No? I socialisti hanno preso una mazzata clamorosa e vabbè, e comunque insomma ce ne faremo, come si suol dire, una ragione. E questi sarebbero i politici, sì. Che dicono agli europei: dovete sperare nell'antipopulismo, perché non è vero che l'Europa è malata e debole, e parlano in questa maniera. Ma adesso c'è la diatriba, uno ci scrive che si dice no, si dice Dijsselbloem, dunque Dijsselbloem, Dijsselbloem o Dijsselbloem, adesso lo chiamiamo, allora, potete chiamarlo. Esatto. Per favore, allora, facciamo così, lo spezziamo in due e gli diciamo dai, pausa, Semblom, cioè ecco così, esatto. Anzi, dai. Con un po' di Emiliano, visto che c'è Bersani, ma l'hai visto Bersani come parla? Bersani sono che... di uova e di latte, sì. E uno dice non ho capito, e si aspetta una parabola contadina sulle mucche, visto che lui, e dice no, perché dalle mie parti si usa per le sardine. Ma non è di Piacenza lui, cosa c'entrano le sardine? Bettola. Perché le sardine, a seconda che siano femmine o maschi, sanno o di uovo o di sperma. Non lo so, io e devo... no, l'ha spiegato lui, mica no, io devo dire che le famose frasi di Bersani, ho smacchiato il giaguaro, io non le ho mai capite. No, nel senso, ma io penso che ci sia un vero accordo mai dichiarato alla SIAE, perché lui è il vero autore di Crozza, ma lui in persona, cioè i proventi veri e anche le soddisfazioni, da un po' di tempo lo dico con affetto per Pierluigi Bersani, gli vengono da questa attività autorale, perché questa cosa che c'è oggi su Corriere della Sera, meravigliose nuove parabole che sono tra l'Italia agropastorale, quella, e sono secondo me il cuore profondo di una visione radicata all'inizio del Novecento, fino all'Ottocento e inizio del Novecento, e spiega anche perché poi alla fine la politica è quella che è, no? E del resto per questo lui dice che insomma i 5 Stelle sono una forza di persino centro, un po' troppo di centro, dice, un po' troppo di centro, a cui scrive il Corriere, sembra strizzare l'occhio Bersani, dovessero i 5 Stelle diventare la prima forza. Dice bisogna parlarci, dice sbaglia Renzi a prenderli a ceffoni, si ricandida a rifare quello che fece all'inizio lo streaming del 2013, che infatti portò bene e portò il governo Letta. E poi, del resto, poi ti dico i salti, mi ha fatto anche, a proposito di figure del Novecento fermo, no? Il fermo immagine, De Masi, che invece considera i 5 Stelle troppo liberisti, capisci? Troppo Milton Friedmaniani, il che ti dà l'idea, quando, lo dico con rispetto, in questo vedi c'è un punto di forza dei 5 Stelle, se un leader storico del PD ti considera moderato di centro, un sociologo di sinistra, simpaticissimo, ma dal punto di vista delle idee un vecchio arnese, se posso dire, lo dico sorridendo perché ho sempre voluto bene a De Masi, ti considera troppo liberista, vuol dire che sei, hai la forza di un parto trasversale. Questo è vero che è così, eh? Cioè, queste due interviste ci fanno capire il motivo, secondo me, profondo per cui i 5 Stelle sono comunque su nei sondaggi, mentre il PD sta iniziando un po' a scendere. Comunque ci siamo giocati i santi, per l'appunto. Ma non ce li siamo giocati. Oggi è San Lea, una vedova, pia, che invece poi di sposare in seconde nozze chi poi diventerà il prefetto pretorio di Roma, sceglie una vita insieme a una comunità di donne laiche molto religiose. Siamo nella Roma di poco prima di San Girolamo, quindi nel IV secolo, e diventa quindi santa, un esempio di dedizione ai poveri di Roma. All'epoca a Roma gli imperatori erano sempre a combattere in giro per le frontiere, quindi era praticamente, stava avviandosi a diventare una ex grande capitale. Altri santi del giorno: Basilissa, Callinico, e mi piace la figura di San Nicola Owen. San Nicola Owen è uno di quei gesuiti, giovani gesuiti, che nella Gran Bretagna, diventata dopo Enrico VIII intransigentemente anticattolica, decide di rimanere in Gran Bretagna, lo prendono e gli chiedono di svelare i nomi di altri cattolici, e lui si fa invece squartare. Quindi ecco, le abbiamo alle nostre spalle un'Europa che, come si vede, non aveva questa grande idea di convergenza. È l'anniversario del primo figlio, il fratello Lumière, 1895. È la fine gloriosa dell'insurrezione, le 5 giornate di Milano contro gli austriaci nel 1848. Sarebbe stato bello stare a quei tempi. Ed è il giorno della morte di Sindona, avvelenato al carcere di Voghera. Non sapremo mai da chi, secondo me qualche politico italiano, se posso dirti. Fausto Bertinotti, auguri. Giulia, buongiorno, auguri. Allora, detto che un ascoltatore ci scrive, mia moglie che è olandese dice che si dice Dijsselbloem, abbiamo basta con questa versione dall'Olanda profonda. Dijsselbloem, direi che chiudiamo la questione della pronuncia. Qualcuno ci dice anche Dindon Danson alle campane, si dice così? No, vabbè, no, lo dico per l'Italia. Allora, parliamo di immigrazione, perché sapete, ci sono alcune procure in Italia, lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi, caro Oscar, che vogliono indagare, stanno indagando su alcune ONG che hanno delle navi che incrociano nel Mediterraneo e che sono attive nella questa flotta solidale nel aiutare i migranti che rischiano i naufragi. Allora, aiutare o, come dire, andare un po' oltre e quasi avere una sorta di connivenza, questa è l'accusa di alcuni, con addirittura gli scafisti. Insomma, aiuto umanitario o servizio taxi? Esatto, aiuto umanitario o servizio taxi. Allora, diamo il numero di telefono 800 24 00 24. Diamo il buongiorno a Luca Donadel, che è un videoblogger, possiamo definirlo così. Donadel, buongiorno e grazie. Buongiorno. Luca Donadel ha fatto un lavoro seguendo che cosa? Le tracce satellitari delle navi. Tra l'altro ha fatto un video che è stato diffuso sulle varie piattaforme social ed è stato condiviso tantissimo. Donadella, quanti click, così per far capire, questo video ha ottenuto? Allora, ha superato le 2 milioni di visualizzazioni su Facebook e oltre 300.000 su YouTube. Si chiama La verità sui migranti, questo è il titolo del video. Che cosa ha scoperto, Donadel, seguendo le tracce di alcune navi? Sapete che ogni nave, insomma, è tracciabile, nel senso che hanno le rilevazioni satellitari, no? Quindi le rotte sono verificabili. Sì, ho scoperto praticamente ogni nave ha a bordo un sistema che si chiama AIS, funziona come i transponder degli aerei, e seguendo appunto questa traccia con un servizio che si chiama Marine Traffic sono riuscito a scoprire quali sono esattamente le rotte che le navi di queste ONG percorrono e in quali punti vanno effettivamente ad eseguire le operazioni di soccorso che spesso sui quotidiani vengono descritte come nel Mediterraneo, canale di Sicilia precisamente. Nel canale di Sicilia. E invece? E invece molto spesso, anzi nella quasi totalità dei casi, come faccio vedere nel mio video, si tratta di salvataggi che avvengono a 10 miglia nautiche dalla costa della Libia, spesso molto vicino a Tripoli. Ed è esattamente quello che deduco nel video, insomma. Insomma, quindi È la stessa testimonianza che Udo Gumpel, amico Udo Gumpel, corrispondente della televisione tedesca in TV in Italia, sabato ci ha dato qui a questi microfoni, perché a bordo della fregata tedesca che fa parte del dispositivo della missione Sofia eccetera eccetera multinazionale del Mediterraneo, ha detto: noi abbiamo regolarmente visto che questa cosa avveniva, e esclusivamente nella parte vicina al confine libico con l'Occidente, con la Tunisia, quindi la parte controllata da Serraj, quello che oltretutto finanziamo, noi finanziamo dare navi ed elicotteri, non viene mai dalla parte della Cirenaica l'afflusso, cioè dalla parte di Haftar, e regolarmente appena sul limitare delle acque territoriali libiche. Dice, ecco, questo è esattamente lui ci ha detto: guardate, noi abbiamo le testimonianze perché sulla fregata tedesca sempre abbiamo visto questa cosa. E ha aggiunto: non capisco perché i giornali italiani su questo non ne parlano. Ma adesso indagano anche le procure. Però Donadel, che cosa c'è di scorretto in questo tipo di, se c'è qualcosa di scorretto in questo tipo di operazione? Perché 10 miglia è già in acque internazionali, no? Se tanto sì, è appena, allora, appena oltre. Appena oltre le acque, le acque territoriali libiche. Le acque territoriali libiche. Il problema, come denuncio nel mio video, è il fatto che diciamo c'è un vuoto normativo, perché io nel video dico che teoricamente andrebbero portati nel porto più vicino, che in questo caso è Zardis in Tunisia, come prevede la convenzione sul diritto del mare firmata dalle Nazioni Unite, di cui la Tunisia è firmataria. Il fatto è che si dibatte su quale sia, ci sono altre normative per cui prevede che il porto debba essere quello più sicuro, e ci sono, diciamo, questo lascia largo spazio di interpretazione. Certo. Perché allora cosa si definisce la sicurezza, secondo quali criteri è più sicuro? E insomma, trovo abbastanza assurdo che possano essere portati da 10 miglia nautiche, anche perché, parliamoci onestamente, a sto punto facciamo un corridoio umanitario, perché tanto vale in quelle 10 miglia, purtroppo gli scafisti, è una situazione abbastanza imbarazzante, basta cercare su un sito web che si chiama Alibaba, è praticamente un sito di grossisti cinesi, cercare sì, certo. Refugees Smuggling Boat, significa navi per il traffico di rifugiati, e si trovano in vendita un sacco di gommoni gonfiabili a prezzi veramente concorrenziali, ovviamente sono, cioè, su Alibaba, che è una delle piattaforme commerciali appunto cinesi più diffuse, no? Esattamente. Cioè il sospetto proprio, Oscar, mi pare di capire, dice anche Luca Donadel, che ci sia quell'effetto taxi, cioè partite dalla Libia, tanto nel giro di 10 miglia, quindi non ci sarà qualcuno che vi viene a prendere. Qui bisogna capire, Oscar, addirittura, perché questa è l'accusa su cui alcune procure italiane indagano, che addirittura ci possa essere, come dire, un accordo, cioè che qualche scafista telefoni alla nave della tale ONG dicendo: guardate che sono partiti, venite a prenderli tra mezz'ora. Questo sarebbe ovviamente gravissimo, ecco, perché sarebbe una speculazione, e su questo le ONG, poi ne sentiremo una, ovviamente respingono tutte le accuse. Lei ha visto, vero, che alcuni contributi come quello di Alessandro Masala, che contestano radicalmente la tesi sostenuta nel suo video, Donadè? Le tesi sostenute da chi precisamente? Per esempio Alessandro Masala, girano delle cose in rete che dicono: no, ma il video è sbagliato, ci sono dei dati raccolti in maniera sbagliata, impropria, sì, allora, solo parziale. Io ho letto l'articolo di Byte, sì. E quello di giornalettismo. Sì, sì, sì, esatto. Diciamo, trovo abbastanza, io accetto assolutamente ogni critica, finché è costruttiva e argomentata, diciamo, trovo abbastanza ridicolo un po' allora attaccarsi al fatto di dire che nel video dette le inesattezze, come il servizio costa 400 euro mentre in realtà costa $400, quindi hanno scritto metà. No, questo sono, su questo. Sì, non so, non questo è una leggerezza, la sostanza, diciamo, un errore delle cose, una leggerezza. Sì, diciamo, sì, ho notato che hanno insistito abbastanza su questo, poi ma alcuni articoli ho notato che hanno integrato dicendo che esiste un'operazione chiamata Operazione Sofia, che è appunto l'accordo che prendiamo con il governo, tra virgolette, libico, perlomeno la parte con cui noi attualmente siamo alleati. Diciamo, secondo me comunque non cambia la realtà delle cose, i tracciati non prendono opinioni, i tracciati GPS che mostro nel mio video non prendono opinioni, non hanno fazione politica, ed esattamente anche quello che volevo mostrare nel mio video non prendo posizioni né di destra né di sinistra, anzi sono stato accusato di aver commentato populismi, ma io semplicemente mi sono limitato a mostrare i dati. Ma tra l'altro, visto che le procure indagano, tre procure italiane, cioè quello che ha fatto Donadel, cioè di vedere i tracciati delle rotte, è una cosa, Donadel, adesso non voglio sminuirla, ma semplice, no? Come assolutamente sì. Quindi, voglio dire, basterebbe che anche queste procure, non so, l'hanno contattata magari a capire. No, ma lo stanno facendo, ma stanno facendo, non possiamo ipotizzare che non lo faccia. Esatto. Non è che, cioè, non si tratta di fare operazioni internazionali di spionaggio con i satelliti. Appunto, ma voglio dire, quindi, essendo abbastanza semplice, si può capire se queste rotte violano qualche tipo però di Alessandro, accordo. Parliamoci chiaro. Questo dirla così e farla vedere così è una cosa sgradevole e sgradita, e lo dico con rispetto, per tutte le parti, cioè non è che io non rispetti le ONG eccetera che si danno da fare, perché tra poco ne avremo ospite. Qual è il sottinteso? Il sottinteso è, ragazzi, se dite così ci fate sembrare al servizio di un'operazione di immigrazione, no? Mentre invece il loro scopo è quello di dire evitiamo, abbattiamo radicalmente, più vicino andiamo alle coste libiche più abbattiamo radicalmente il tasso di coloro che sono esposti al rischio di morire in mare, sì, come ovvio. Che è anche allora, questa una che ragione. Una ragione che io capisco, e naturalmente dal punto di vista umanitario ne ho una stima assoluta del ragionamento. Il punto però è che non bisogna arrivare al punto di negare nella rappresentazione della gente di come è cambiato questo fenomeno. Cioè è vero che noi siamo al limitare delle coste libiche, e questo crea un problema di ordine politico, crea un problema di fondo, visto che diventa un flusso che, per così dire, ci andiamo a prendere, scusate se semplifico, e che muta le caratteristiche, la scissa e l'ordinata di tutto il dibattito sul flusso incontrollabile. Perché a questo punto il sottinteso è, e capisco che le organizzazioni, le ONG, non ne vogliono sapere perché non fanno politica, non è questo il punto, però capite che siccome si è detto per anni e anni a chi diceva blocco navale non si può fare, esatto. Dice come? Noi possiamo essere a limitare delle coste per prenderli e non per fare il blocco navale. Infatti, allora, se li prendiamo lì, la differenza tra blocco navale e prenderli è solo il porto, infatti, dove li portiamo. Come dice Donadel, esatto, che è tra l'altro una opinione di molti, anche operatori del settore umanitario, allora creiamo dei corridoi umanitari, che vuol dire identifichiamo prima coloro che hanno diritto a venire e poi creiamo un corridoio umanitario, cioè li facciamo venire con degli aerei e non, o con delle navi sicure, senza il rischio di morire poi per mare. Però Donadel, se sta con noi, tra poco avremo ospite Regina Catrambone, che abbiamo già avuto in passato, non so se ve la ricordate, è una finanziatrice e cofondatrice di una Ollus internazionale, il MOAS, Migrant Offshore Aid Station, che tra l'altro è la prima che ha fatto questo tipo di operazioni. E se non sbaglio, Donadel è una delle ONG un po', si direbbe in termine poliziesco, attenzionate, o no? Sì, il MOAS, non ho seguito navi del MOAS perché non sono attive dall'anno scorso, sinceramente, quindi non ho potuto seguirle del MOAS. Chiederemo però, perché pare che insomma qualche violazione, almeno questa è l'accusa, e loro hanno risposto dicendo è tutto a posto, l'hanno fatta, ma sarà con noi e vedremo che ci dice tra poco. State ascoltando un programma offerto da Office 365, il tuo ufficio sempre con te. Provalo a un euro. Vai su aruba.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, Oscar, alle 8:41 minuti, stiamo parlando di immigrazione, stiamo parlando, con noi c'è Luca Donadella, che ha fatto questo lavoro contestato su alcuni siti, Sì, ma basta intervenire su questi argomenti per essere contestati. È chiaro. Vedo ascoltatori che dicono che sono pronto a candarmi per la Lega, non credo proprio, guardate. Ripeto. Riconoscere l'impegno umanitario a chi salva migliaia di vite non ci deve impedire di capire come è cambiato e perché è cambiato e che caratteristiche ha il fenomeno di salvare, fare più degli interventi a limitare delle 12 miglia. Questa cosa è una riflessione profonda da fare, Perché se credete che questa cosa, per esempio, che successivamente i tedeschi ha avuto un'enorme rilevanza, perché i corrispondenti tedeschi, come Udo Gump, perché dicevo prima, l'hanno descritta e raccontata sui giornali tedeschi, influisca poco, per esempio, sul fatto che in Europa si pensi, ma come, voi ve li andate a prendere? Allora, lo so che può essere sgradevole, secondo alcuni, descrivere in questi termini un fenomeno che riguarda le vite, la sofferenza di centinaia di migliaia di persone, però il problema è che questo fenomeno è cambiato e allora tentiamo di capirlo, il nostro mestiere è raccontarlo. Tra l'altro con noi, e ci ha raggiunto e la ringraziamo, è stata con noi anche credo un paio d'anni fa, un anno fa, quando ha lanciato l'iniziativa, c'è Regina Catrambone, che è italiana e finanziatrice e cofondatrice della Onlus internazionale MOAS, cioè Migrant Offshore Aid Station. Buongiorno Catrambone, grazie di essere con noi. Buongiorno e grazie per avermi invitato. Allora, Catrambone, il tema è questo. Sa che ci sono anche due, forse tre procure italiane che vogliono indagare sul ruolo di alcune ONG che fanno salvataggi in mare, come fate anche voi di persone, di migranti. Voi cosa rispondete alle accuse di chi dice, attenzione, forse ci si è spinti un po' oltre nel fare da ruolo da tassisti più che da persone che intervengono per salvare le vite? Che risponde Catrambone? Beh, intanto definire un'organizzazione umanitaria come il MOAS, che ha lavorato accanto al Mare Nostrum come unica organizzazione nel 2014, quando il nostro ministro degli interni Angelino Alfano chiedeva all'Europa di avere altre navi, altri aiuti e non solo l'Italia, mi sembra un po' riduttivo definirci tassisti. Direi che è importante che si facciano tutte queste questi controlli, importantissimo, e vorrei stressare che è importante anche la cooperazione solo in mare tra le diverse navi, le diverse organizzazioni, includo la Marina Militare Italiana, includo Frontex e la Guardia Costiera, ma è importantissimo agli sbarchi di cooperare con le forze dell'ordine che prenderanno in carico queste persone che non hanno alcune volte mezzi di identificazione. Quindi è importante che le organizzazioni umanitarie aiutino le autorità, quindi ben vengano questi controlli. Sì. Ma lei esclude che qualche ONG sia andata a ridosso delle acque internazionali libiche a soccorrere i migranti in mare? Guardi, io non escludo, ma non posso neanche confermare, perché io mi occupo del MOAS, quindi certo, Io conosco il modus operandi della nostra organizzazione umanitaria. Non qual è? Ce lo può spiegare? Ce lo può spiegare qual è il vostro? Noi diamo le coordinate dove andremo in missione e ci coordiniamo dal momento della partenza con il Maritime Coordination di Roma, il soccorso marittimo di Roma, che diciamo è un po' il cervello di tutti noi in mare, inclusa la Marina e il Frontex. Loro sanno dove noi siamo, quindi sono ben attati. Poi negli ultimi tre anni abbiamo fatto missioni con il supporto di droni, cercando di dare delle visual alla Marina Militare Italiana, alla Guardia Costiera. Ciò non significa che perché noi condividiamo tutte le informazioni, e questo è molto importante, perché qualora noi non possiamo andare vicino all'imbarcazione che sta affondando oppure si trova in mare, un'altra nave che è più vicina può essere coordinata dal coordinamento di Roma. Quindi io credo molto nello sharing information, nella tecnologia, sì, per cercare di risolvere questo fenomeno migratorio. Non si può continuare in maniera obsoleta e non si può continuare a rispondere all'ondata migratoria, ma bisogna attivarsi a monte, anche perché quello che noi vediamo in mare non è altro che il risultato di tutto quello che c'è, sì, nel deserto, perché nel deserto non se ne parla. Beh, chiaro, non si vede, ma sono questo si è tante volte detto, sono migrazioni che partono spesso dal Centro Africa o dalla regione subsahariana, si spostano verso la Libia. Bisogna andare nelle country of origin, nelle dove nei paesi loro d'origine, sì, certo. Non nei paesi di origine. Sì. Quello sarebbe il modo per risolvere, affrontare i problemi in maniera più radicale. So, Oscar, assolutamente. Noi dal 2014 a oggi abbiamo 33.000 persone, prima con una nave e i droni, poi con due navi. Abbiamo lavorato anche in cooperazione e in coordinamento con la Guardia Ellenica quando eravamo nel Mare Egeo. Quindi io esorto tutti a coordinarsi e a continuare a lavorare in mare finché non ci saranno delle tangibili organizzazioni della resettlement e relocation. Sì. Dobbiamo usare questi umanitari, il ricollocamento, sin da paesi d'origine, per le persone come i siriani, quando noi prendiamo il mare i siriani, come gli Oromo, che è una minoranza. Sono tante situazioni, non si può parlare in maniera vasta come un mazzo di fiori dei migranti. I migranti, abbiamo il migrante economico, abbiamo il richiedente asilo, abbiamo il rifugiato, sì. Quindi è importante che ci siano canali diversi per attivare queste migrazioni, per controllarle, perché noi quando abbiamo creato il MOA volevamo, come si dice in inglese, fulfill the gap, cioè colmare lo spazio tra lo Stato e il cittadino, perché se al cittadino va bene, sì, che un'altra persona come noi muore male, il cittadino non può solamente dire ma è lo Stato che lo deve fare. Si deve attivare e deve cercare di aiutare il suo Stato. È chiaro, questa sua posizione è molto chiara, insomma. Io credo che noi dobbiamo, come sempre, ed è sacrosanto, ribadire un grazie di tutti quanti a chi si è impegnato con tempi, risorse, mezzi, spirito organizzativo, dedizione in mare e per mettere a disposizione i mezzi per cose come queste che hanno fatto il mondo. Dall'altra parte, ripeto, il nostro mestiere è quello di interrogarci sull'aspetto particolare che ha coordinate politiche e di sicurezza relative al fatto che c'è una sola parte, sono poche decine di chilometri di costa libica da cui parte il flusso. Abbiamo letto su giornali stranieri, ripeto, che i servizi e l'opera di intelligence occidentale, non solo italiane, conoscono i nomi e i cognomi e la rete dei principali operatori che fanno partire il flusso dalla costa a 12 chilometri, parlano di collegamenti, cioè di intercettazioni. C'è un giornale tedesco che ha parlato anche di una particolare risorsa dell'NSA americano, cioè dell'agenzia che si occupa di delle sicurezza, intercettazioni multimediali in tutte le forme, dedicata a capire meglio quali bande politiche di sostegno a Sarraj operino e traggano quindi sostentamento finanziario esattamente dal flusso che si dirige verso l'Italia, circoscritto da queste poche decine di chilometri di costa. Ecco, quindi è un aspetto fondamentale per capirlo, proprio per evitare che il traffico di carne umana generi morti, e dall'altra parte perché altrimenti politicamente non si riuscirà mai a capire come solo lì ci sia questa cosa che si è concentrata e altrove no. Sì, quella zona qua, che tra l'altro è controllata da colui che abbiamo finanzieremo con 800 milioni. Che consideriamo come il fulcro della nuova governabilità della Libia, quando non controlla neanche Tripoli. Navi, eccetera. Prima di tornare un attimo da Donadelle, ci sono Pietro da Vicenza, ci chiama. Pietro, buongiorno. Non c'è, sì. Pietro. Allora, io chiedevo, non c'è tanta ipocrisia in quello che stiamo dicendo? Cioè? Se è giusto che questi vengano da noi, perché non diciamo loro, invece di attraversare il deserto, invece di attraversare tutte queste problematiche, fate un biglietto aereo, venite in Italia, poi siccome avete diritto diritto, non venite più controllati, almeno non c'è, come si dice, non c'è il pericolo che moriate in mare, che siate sfruttati. Se hanno diritto di venire in Europa. Se uno per esempio è un profugo che fugge da una guerra, è difficile che riesca a fare un biglietto aereo, o se è un perseguitato politico è difficile che faccia un biglietto. Non fuggono dalla guerra, sono immigrati. migranti che vengono qua, ecco, per il lavoro. Per altro motivo, se uno è un migrante economico, cioè uno che non ha soldi, capisce anche lei che non avrai soldi per fare un biglietto, non so, dal Congo per, non so, spendere 1.000 euro per venire qui. Diciamo che tenta delle vie alternative. Questo, questo è abbastanza intuibile. Comunque, grazie Pietro. Giancarlo da Torino. Buongiorno. Buongiorno. No, io ve l'ho fatto, ho fatto solo questa piccola considerazione. Che non voglio generalizzare come dire, sul fatto che le ONG siano delle organizzazioni che, politiche e che non siano corrette, però sicuramente qualche ONG gli affari sui migranti ce li fa, sia nel mezzo tra la Libia e l'Italia dove c'è il mare, sia quando vengono in Italia. Sì, anche, anche qualche cooperativa. No, lasciamo perdere il fenomeno delle indagini sulle cooperative. Adesso non, non mischiamo però tra chi sta in mare e chi... Esatto. Poi, voglio dire, viviamo in un mondo complesso. Per esempio, a me sarebbe piaciuto oggi anche la misura sui laptop e i tablet... messo da Trump, vietato. Il divieto di portare nei bagagli per alcune compagnie aeree e alcuni Trump paesi di provenienza. Anche Londra, anche Londra, anche se i paesi e le compagnie sono diversi. È giusta o meno? Io a naso direi che la stragrande maggioranza delle persone direbbe è giusta. Io la risposta è non lo so. A me inquieta un po', ecco, intanto, la mia risposta è, sono sincero, non lo so, perché se siamo anche a questo, beh, ci limitano un po', non so. Ma non è questione di limitarci. Vabbè, è una perché solo i laptop? Sono avvenuti alcuni episodi. Appunto, il timore è che sappiano qualcosa a sto punto, sì. Certo, ma io posso mettermi un giocattolo di un bambino dentro in cui c'è un circuito elettrico, un chip. Con questo criterio entriamo in una direzione di divieti discrezionali. Donadel, per chiudere, c'è qualcosa che delle accuse che le hanno fatto che più le la ferisce o sulla quale magari è stata una ricerca per cui dice beh effettivamente su questo magari c'è qualche leggerezza l'ho fatta? Allora sinceramente io degli attacchi ad personam, cioè sulla persona che ho ricevuto, non me ne curo molto. Delle critiche argomentate, diciamo, mi ha fatto piacere sentire anche il parere della signora Catrambone, però penso che ci sia da aggiungere una cosa, che assolutamente, come avete ribadito voi, è giustissimo l'operato di queste ONG quando vanno a salvare vite. Se però cercate su YouTube, proprio in questo momento c'è un video fatto da Jefira Channel che si chiama People Trafficking, in cui si vede proprio la Phoenix e la Topaz Responder, che sono le due navi utilizzate dal MOAS, che appunto ha fatto sostanzialmente la stessa cosa che ho fatto io, l'aveva fatta per l'ottobre, Jefira Channel, e si vede appunto la Phoenix, la Topaz Responder, che fanno soccorsi nella stessa zona, proprio sempre usando marine traffic, questo. Il fatto è che, come ha detto la signora Catrambone, ci sono migranti economici, il problema è che questi migranti non sono riconosciuti dall'Unione Europea, cioè, esatto. Cito l'articolo della stampa che ho citato anche nel mio video, la Commissione UE irregolare l'80% dei migranti che arrivano in Italia. Il problema è che poi chi paga per questi migranti, perché l'Unione Europea poi ci dà il ben servito, ci dice noi riconosciamo solo gli eritrei e i siriani e tutto il resto sono capo. E infatti hanno detto che 1 milione su metà devono essere rimpatriati, questo esatto. È l'Unione Europea. Comunque noi vi salutiamo e vi ringraziamo, Luca Donadel e Regina Catrambone, responsabile tenuto conto della che questo è uno dei problemi che ha fatto esplodere. Adesso c'è il meeting questo a Roma questo fine settimana, che ha fatto esplodere negli ultimi 2 anni, e anche per, giusto per questo parlarne. Sì. Dai, ringraziamo Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Peter Vescapè in regia, e ci troviamo domani.